Allora, io intanto comincio a trasmettere le scuse di comincio a trasmettere le scuse di Pier Giorgio Bellocchio che così è stato incerto fino a due giorni fa, e questa è la ragione per cui abbiamo lasciato il nome nell'invito, che non è una cosa simpatica, però veramente siamo state tenute in sospeso. Poi voleva davvero venire, adesso anche spiegherò meglio anche le ragioni per chi già non lo sa, Alessandro Pizzorno, e invece ha avuto un incidente domestico ieri e quindi non, diciamo, è immobilizzato a letto. Ecco, vuol dire che insomma qui sarà meglio che non allarghiamo gli inviti, beh, altrimenti succede qualche cosa. Sentite tutti bene? Va bene. Allora, come sapete, l'occasione è la presentazione di un numero di parole chiave dedicato a Danilo Montaldi. Io qui faccio un po' le parti del nostro direttore Claudio Pavone, che non è voluto intervenire, cercando di spiegare le ragioni di una scelta, che è una scelta anomala per una rivista che vive ormai da vari anni, e cioè la scelta di mettere come parola chiave il nome e cognome di una persona. Ecco, e questa persona è appunto Danilo Montaldi. Questa scelta è maturata nel corso degli ultimi anni, e in particolare per il fatto che in particolare due di noi, cioè io e Pino Ferraris, che sta arrivando, abbiamo collaborato alla iniziativa, diciamo, alla presentazione a Cremona dell'archivio che è stato donato, depositato presso l'archivio di Stato, dell'archivio di Danilo Montaldi, donato dalla famiglia. E abbiamo qui anche il piacere di avere Gabriella Montaldi, che viene appositamente da Amburgo, e quindi un po' anche in sua festa mi piacerebbe che questa discussione si avviasse, visto che gran parte delle persone qui riunite appunto è interessata all'opera di Danilo, in parte alcuni di noi l'hanno conosciuto, altri invece più giovani si sono avvicinati a lui di recente. Ecco, è questa la ragione per cui abbiamo pensato di dedicare a Danilo Montaldi un numero di parole chiave, che sempre di solito segnala un tema su cui si incrociano anche competenze disciplinari diverse, come è fatta appunto la nostra direzione. Ora, la ragione principale, ed è quella che ho cercato di spiegare nel mio articolo iniziale, è di questa, insomma, anche soddisfazione scelta, è il fatto che esiste una letteratura abbastanza vasta e iniziative numerose che sono state fatte su Danilo Montaldi, ma che almeno, diciamo, in questi ultimi tempi ci lasciano profondamente insoddisfatti, perché l'immagine che deriva appunto di Danilo da questi convegni è un'immagine in qualche modo, mi sembra, figé, congelata, ecco, congelata come, dove? Congelata nel momento della sua morte, che è il 75, quindi nel momento anche così più alto di un certo irrigidirsi, così diciamo, della sinistra, dei gruppi, oppure in generale anche degli appartenimenti, insomma, alla storia del movimento operaio, per cui praticamente poi di Danilo Montaldo, soprattutto la generazione di quegli anni, ricorda prevalentemente appunto il saggio su Koch, il saggio sulla le pubblicazioni quasi postume, insomma, oppure rilegge le pubblicazioni precedenti alla luce di una visione, come dire, militante, e questa militanza è tutta interna, intrinseca ai gruppi degli anni 70. Ecco, nel corso degli anni successivi, e soprattutto nel corso degli anni 80 e 90, secondo me le cose sono profondamente cambiate, e lo si vede da dalle iniziative più recenti che sono state compiute. Una che è bellissima, purtroppo non conosciuta e non può essere conosciuta perché è stata stampata in poche copie a Cremona e quindi è qui, come dire, tenuta rigidamente, donata da Ester Fano, è tenuta rigidamente tra le mani perché nessuno ce la sottragga, pochi di noi appunto l'hanno, è questa raccolta degli scritti del 50, tra il 52 e il 75 di Danilo Montaldi, curata da Gabriella Montaldi e con l'aiuto di Romano Alquati. È una raccolta splendida, ecco, ed è la ragione per cui alcuni di questi articoli li ho comunque ristampati nell'archivio della rivista. È una raccolta splendida per il significato, diciamo, per la novità, per lo sguardo libero, fresco, intelligente che Danilo ha su autori, eventi negli anni 50. Ecco, che cosa voglio dire? Di recente, mi sembra, in qualche modo, proprio le persone, diciamo, contemporanee di Danilo, hanno cominciato a riflettere sulla sua opera e a scrivere cose che riguardavano il rapporto di loro stessi con Danilo, ecco, mettendo in gioco anche se stessi in questo dialogo. Lo si vede benissimo in un altro volume, convegno, curato da Franco Fiamini, su Danilo Montaldi, frutto di un convegno di Cremona del 2003, e qui abbiamo le brevi testimonianze di Pizzorno, la testimonianza di Roberto Rozzi, lo stesso Fiamini, non parliamo di Sergio Bologna, che è sempre stato il più ricco di spunti, insomma, no? Ecco, mi sembra che negli ultimi anni questo, per non parlare poi, e poi lo riprenderanno gli altri amici, della introduzione di Pier Giorgio Bellocchio, della nuova introduzione di Pier Giorgio Bellocchio, Autobiografia della leggera, che è del 98, dove è chiaramente Bellocchio riflette su se stesso, ecco, riflette su se stesso e sul suo rapporto appunto con Montaldi e ciò che Montaldi fa emergere. Che cosa voglio dire? Ed è un po' il significato del lavoro che io ho fatto introducendo Montaldi, del nuovo ruolo che per capire gli anni 40 e 50 hanno le biografie. In un volume di studi culturali, la rivista pubblicata dal Mulino, da una generazione di giovani, insomma, no? È stato dedicato appunto anche qua una sezione a Danilo Montaldi. L'hanno curata due giovani in pratica, cioè Paolo Capuzzo e con l'aiuto di Costanza Bertolotti, che è una giovane studiosa che ha inventariato, diciamo curato l'inventario dell'archivio che è stato appunto donato all'archivio di Stato con questo inventario. Ecco, nel saggio di Costanza Bertolotti che c'è in Studi Culturali, Costanza mette in luce a un certo punto un paio di testi inediti di Danilo. Uno è la biografia di Goethe, La vita di Goethe, che ho ripubblicato nel numero di Parole Chiave, e l'altro è un altro testo analogo che si chiama Noi in Toller. Ecco, entrambi questi testi, Noi in Toller è l'identificarsi, diciamo, in questo personaggio di alcuni giovani che vanno in guerra, muoiono e di nuovo appunto anche La vita di Goethe ha come sottotitolo Ogni biografia è una storia universale. Ecco, io vorrei, chiudendo qua, diciamo, leggervi due brani che mi sembrano importanti per capire l'operazione che è stata fatta, e credo un'operazione che può e deve essere fatta forse anche su altri personaggi. Danilo scrive questo saggio che ha 21-22 anni, cioè giovanissimo, è un ragazzo, nella biblioteca di Cremona, dove lavorava. Qui faccio anche un'esaltazione del ruolo delle biblioteche governative in giro per le varie province, perché credo che sia, la mia esperienza, e poi l'ho trovata riflessa in Danilo, è questa, diciamo, l'importanza di queste biblioteche per chi viveva in provincia. A un certo punto Costanza richiama la prefazione di Goethe a Poesia e Verità, che dice così: poiché questo sembra essere il compito principale della biografia, è Goethe, di rappresentare l'individuo nei rapporti col suo tempo e di mostrare fino a che punto il tutto gli si oppone, fino a che punto lo favorisce, come egli se ne è forgiato una visione del mondo e degli uomini e come, se è artista, poeta, letterato, lo riflette a sua volta. Ecco, questa sottolineatura, se è artista, poeta, letterato, mi conduce a leggervi ancora questa citazione che è invece di Danilo Montaldi, perché a mio parere appunto Montaldi, come del resto spiega anche Bellocchio nell'introduzione alla Leggera, e non solo lui, ma come già diceva Pasolini da subito con un grande intuito, diciamo, perché Montaldi è poi sostanzialmente è uno scrittore che è un artista. E appunto in questo caso la biografia è una biografia universale, ecco, no? Perché è attraversato, e di questo è consapevole. Scrive a un certo punto a Feltrinelli nel giugno del 67, pensando di ventilando di scrivere un'autobiografia, e dice: non sarà un libro di memorie, di bla bla bla, ho fatto questo e mi è capitato quest'altro, ma di riflessioni su vicende, persone, situazioni, per le quali non è possibile che usare in modo narrativo autobiografico. Il fine rimane dunque questo, immediato, di usare del presente come storia, di andare contro la corrente di una storia che potrebbe inchiodarci in un falso fondo oro, mentre deve uscire tutta l'ordure, un'intensità, la stessa con la quale siamo vissuti, e dirlo subito. E per capire anche come mi sono trovato così dentro di me, pur essendo il tramite di così diverse espressioni, per le quali ho abolito delle parti di me, purché quelle uscissero integre, che voglio scrivere a partire dal termine io, dove io diventa numeroso e come un ponte. Ecco, a me sembra molto chiara questa citazione, questa lettera, pensando appunto a queste autobiografie che ci sono state donate da Montaldi e che sono state costruite dagli autori grazie al dialogo che si è intrecciato con Montaldi, che durava anni, Qui nasce tutta una, giustamente, diciamo, anche una polemica sul rapporto tra questo materiale e la sociologia, su cui Enzo Campelli già in un veramente originalissimo saggio del 1979, mi pare, ha scritto un saggio molto molto innovativo, diciamo, e molto puntuale, ecco, è ancora oggi attuale. Allora io mi fermerei qua, darei la parola, visto che ho chiamato in causa Enzo Campelli, e poi a Enrico Pugliesi. Grazie. Bene, io sono cose rituali, ma mi permetterete. Sono molto contento, molto grato di essere qui. E come diceva, come è stato appena detto, c'è un elemento di inestricabile biografia in tutto questo. E vorrei iniziare queste due parole che dirò proprio con un riferimento biografico. Mi permetterete, non è il mio stile, non lo farei mai, ma nel caso di Montaldi è veramente una faccenda diversa. A me è capitato di inciampare in Montaldi e di scrivere questo saggio, e sono 30 anni fa, quindi avevo la metà degli anni che ho adesso, ero un precario dell'università, avevo studiato sociologia, venivo da esperienze politiche, da relazioni politiche che mi avevano molto, molto provato, molto scosso. E per me Montaldi fu un innamoramento assoluto, ecco, io so benissimo che, perlomeno per me, funziona in questo modo. La rilettura di pagine scritte, di proprie pagine scritte, dopo anni, io lo trovo, e ne parlavano con qualche giorno fa, ti ricordi? Io lo trovo un'esperienza drammatica. Rileggersi dopo molti anni restituisce un quadro impietoso di se stessi. Quella cosa non l'avevi capita, quella non la sapevi, quell'altra cosa non l'avevi letta, questo l'hai scritto male. E naturalmente questa sensazione di frustrazione mi è capitata puntualmente, rileggendo oggi quel saggio di 30 anni fa, 30 anni fa è metà della vita. e il mondo era completamente diverso. E però ovviamente quello scritto poteva essere diverso, avrebbe dovuto essere più documentato, però io l'ho molto amato e da allora è stato, mentre ciascuno di noi credo scrive cose che vorrebbe dimenticare, a me è capitato di aver scritto cose che vorrei dimenticare, quel saggio su Montaglio l'ho sempre molto amato, l'ho sempre inserito in tutti i curricula, l'ho sempre messo in tutti i concorsi, mi ha tenuto compagnia effettivamente in questi anni. Ripeto, è stato un innamoramento, so bene che questa parola non è, gode, come dire, di un limitato diritto di cittadinanza per chi tenta di fare lavoro scientifico, e tuttavia io sono convinto che si studia bene solo ciò che si ama o solo ciò che si odia. Ciò che ci è indifferente non si studia bene, perlomeno a me capita così, questo è l'atteggiamento forse del professionista, l'atteggiamento dello studioso è un altro. Ebbene, io sono capitato a leggere i libri di Danilo Montaldi, le ricerche sociologiche, quindi Milano, Corea, La Leggera, militanti politici di base, perché mi occupavo dell'uso della biografia nella ricerca sociale. Ero un metodologo, tutto sommato lo sono ancora, il mio problema era quindi indagare, studiare l'uso della biografia nelle scienze sociali, nella sociologia. Allora non era ancora una moda della ricerca sociologica come è stato dopo. Per la verità nella storia della sociologia l'uso del materiale biografico ha sempre avuto un atteggiamento carsico, è apparso e scomparso, ha avuto stagioni di fortuna immensa e poi è sparito. Per chi ama i precedenti storici è ovvio che bisogna fare riferimento a questa grande ricerca di Thomas Znanieki, siamo all'inizio del Novecento, una grandissima ricerca sul contadino polacco interamente costruita su documenti personali, su lettere. E questa ricerca, come tutti ricorderete, ebbe una fortuna straordinaria. Per poi, ecco, c'era chi teorizzava il fatto che il materiale biografico fosse il più perfetto, anche se il più negletto dei metodi della ricerca sociologica. Fin da subito, cioè, questo ricorso alla biografia ha una specie di vocazione totalizzante, tende a essere percepito, posto, usato come la chiave di volta. Se non che dopo questo exploit degli anni 1918-1920 l'uso del materiale biografico scompare dalla sociologia americana, scompare completamente, sparisce, e Thomas Znanieki torna in Polonia da dove veniva, e curiosamente un'altra esplosione di materiale biografico si ha in Polonia con questa esperienza straordinariamente interessante della scuola memorialista polacca. Lì sì, come so bene di dire cose ben note, ma insomma si sviluppa tra gli anni 50 e gli anni 60 una stagione straordinariamente intensa di esperimenti di autoconoscenza da parte della classe operaia. Ci sono materiali abbondantissimi su vite di disoccupati, vite di contadini, un tentativo gigantesco da parte di una classe intera in più, immersa in un momento di cambiamento culturale, economico, politico, ideologico, intensissima, ma un gigantesco tentativo di autoconoscenza. Per anni a me risulta che questa esperienza della scuola memorialista polacca è rimasta completamente nascosta alla sociologia occidentale. E dopo quella stagione, ancora una volta, con questo atteggiamento carsico, con questo strano orientamento carsico, la biografia scompare fra gli strumenti della ricerca sociologica. Ricompare in Francia con il gruppo di socialismo del Barì e ricompare in Italia con Danilo Montaldi. Io ho un'ipotesi su questo andamento carsico del ricorso alla biografia nelle scienze sociali. Mi sembra di poter dire che in tutte quelle fasi in cui, come dire, il rapporto strutturato di potere perfino, e Montaldi questo lo dice in pagine bellissime, in tutte le situazioni in cui c'è un rapporto forte, gerarchico, strutturato, compiaciuto tra il ricercatore e l'oggetto della ricerca, quello è il momento che tende a segnare la fortuna delle strategie quantitative, degli approcci standardizzati. E quando questo confine tra il ricercato, come dire, il ricercatore, tra l'osservato e l'osservatore tende a farsi più complesso, tende a farsi più sfumato, tende a risentire l'uno in qualche modo delle responsabilità e delle parole, dei sogni dell'altro, quello è il momento della biografia in qualche modo, quel momento in cui, cioè la biografia tutto sommato nelle scienze sociali ha sempre avuto, prima di diventare moda, che è accaduto a mio parere intorno agli anni 70, prima di diventare moda ha avuto questa straordinaria capacità di fondere codici, di allentare fratture, di allentare separazioni. E allora, quando sono stati pubblicati appunto le autobiografie della Ruggeri e le altre ricerche di Montaldi, non c'era molto in Italia che usasse il materiale biografico. C'erano state le ricerche di Cagnetta Orgosolo, c'erano state le ricerche di Bianciardi sulla Maremma, sui minatori della Maremma, oppure la ricerca di Vallini sugli operai della Fiat. Tutto sommato, però, a me, quando studiavo queste cose, mi sembrava che queste ricerche avessero un respiro limitato. In qualche caso c'era una forma di riproposizione estetizzante, evocativa, di situazioni passate. Ecco, la scoperta di Montaldi mi fece scoprire un mondo completamente diverso. Un mondo completamente diverso, in cui la biografia non aveva nulla di evocativo, o perlomeno. Non era usata per riproporre in maniera romantica, in maniera affabulatrice, delle realtà passate. Tutti noi ricordiamo che la fase bruciante di Bologna, che dice non c'è vigliaccata peggiore che dare a Montaldi del sociologo. Anche a me colpì molto questa frase. Io la interpreto, la interpretavo allora, ma credo che sia possibile interpretarla così ancora adesso, nel senso che certamente Montaldi non era un sociologo se con questo si fa riferimento a una specifica competenza disciplinare. Da questo punto di vista certamente la sua biografia era un tessuto unificante di competenze, di percorsi, di ispirazioni. Credo, e anche questo fu quello che mi affascinava, credo che Montaldi non abbia mai pensato di costruire una proposta sociologica globalizzante che si servisse di materiale biografico. Non c'era, io credo, in lui questo spirito di sistema, questo voler individuare il metodo giusto. Io credo, e questo mi colpì molto, credo che ci fosse in lui questa tolleranza, non è la parola giusta, questa pazienza scoprire le diversità, gli antagonismi, le non coincidenze, senza nessun tentativo di volerle comporre in un quadro unitario. La biografia serviva probabilmente per, come è stato detto mille volte, per ridar voce, per ricostruire una storia dal basso, per restituire protagonismo, ma in questo secondo me non c'era nessun desiderio di costruire un'epistemologia. E questo è, credo, uno degli aspetti decisamente innovativi. C'era allora la passione per la messa in evidenza di queste fratture molteplici, senza alcuna ambizione di composizione, senza alcun desiderio di restituire unità, laddove unità non c'era. E io credo che questo sia stato l'aspetto più forte, più moderno, nel suo modo di utilizzare materiale biografico, un modo che non ha avuto poi riscontri. Dopo queste ricerche sono venute altre indagini con materiale biografico, ricorderete, non so, la negazione urbana di De Masi e Guadagno, ricorderemo La piccola città e poi Vita di Baraccati, e poi anche l'uso che è stato fatto soprattutto da parte di Ferrarotti, della biografia. Ecco, qui secondo me c'è una contrapposizione radicale, una contrapposizione fondamentale. Nella interpretazione di Ferrarotti la biografia è diventata, sì, in qualche modo, a mio parere, un'epistemologia. C'è qualcosa di fondamentalmente diverso, io credo, quando Montaldi dice ogni biografia è una storia universale, dalle posizioni che Ferrarotti è andato elaborando, per esempio, nel suo volume, che si chiama Storie e storie di vita. Sì. Anche lì Ferrarotti usava una posizione simile, cioè diceva possiamo studiare tutta una società attraverso una biografia. E quindi sembrerebbero posizioni molto simili, io credo che non lo fossero, credo che nell'impostazione di Montaldi ci fosse passione per la frammentarietà, non bricolage, perché me le ricordo ancora, sono passati 30 anni, ma mi ricordo perfettamente queste parole nell'introduzione dell'autobiografia della Leggera, perché il problema era unire la conoscenza a un progetto pratico politico per la trasformazione della realtà, unire conoscenza di realtà ad un progetto pratico politico. Questa passione per ciò che può essere altrimenti è quello che distingue, io credo, il suo uso della biografia da una soluzione meramente tecnica o anche più ampiamente epistemologica. C'era veramente il progetto di vita, il progetto di una vita, la sua e quella degli altri. Questa idea che attraverso una biografia si possa studiare un mondo, una società, è profondamente vitale, lo ripeto, ma in un senso diverso da quello che poi è stato la deriva dell'uso biografico. Credo che ci fosse in lui questa consapevolezza fondamentale che ogni uomo è un mondo. E dentro il mondo di ciascun uomo ci sono mille mondi. Era questa idea che mi ha affascinato e che non coincideva poi con l'idea semplice e poi più tardi banalizzata di fare delle biografie semplicemente uno strumento di ricerca. Lui c'era l'idea che si potesse, si dovesse con queste immaginare la possibilità di un mondo diverso. Mi fermerei qua per il momento. Eventualmente tornando dopo. Grazie mille. Sì, vorrei. Grazie. Prima di passare la parola a Enrico Pugliese, vorrei ricordarvi, scusate, l'indice di questo numero, perché era compito mio farlo naturalmente, ma non l'ho fatto prima, perché quello che non ho detto, dando un po' troppo per scontato che appunto il numero fosse stato visto, è che si è cercato appunto di costruire prima il convegno e poi soprattutto questo numero di parole chiave attorno a una riflessione che riguarda appunto quello che ha toccato adesso Campelli, e cioè come nasce la sociologia, o per alcuni nasce, per altri rinasce e così via, diciamo, proprio no, c'è una visione, diciamo, anche conflittuale, insomma, rispetto a questa idea che la sociologia abbia continuato a vivere anche negli anni del fascismo, per altri invece scompare del tutto e rinasce nel dopoguerra, insomma, questo dicono le storie più classiche della sociologia. E ecco, in questa rinascita della sociologia del dopoguerra, o diciamo meglio delle scienze sociali, certamente schiacciate dal fascismo e dal marxismo, ecco, in questa rinascita il tema forte, il tema è la presenza del lavoro, e quindi dei lavoratori, e questo consente un intreccio di passioni e di intellettuali, non tutti poi continuati poi nella sociologia, diciamo. Ecco, c'è una specie di crogiolo in quegli anni, negli anni appunto penso a 40-50, attorno a cui credo valga ancora la pena di lavorare, ecco, perché in realtà sono stati, abbiamo scritto, abbiamo per dire, ma anche in un altro numero di parole chiave sul 1969, diciamo questi anni poi sono stati, Goffredo Fofi ha sempre detto il 68 è breve, ecco, finisce subito, ecco, poi dopo subentrano, ecco, quegli altri anni in cui tutto quel fiorire appunto anche di iniziative, questi interessi, soprattutto questa apertura, questo allontanarsi dal fascismo come cappa che aveva segnato la cultura, la mentalità, che era stata piccolo borghese provinciale, ecco, no? Appunto Montaldi è in fondo appunto di Cremona, ma ecco, è diciamo, agisce con uno sguardo che è totalmente internazionale, ecco. Allora quello che abbiamo cercato di fare era ricostruire questi fili, insomma, pensando che questo sia un modo per ricostruire la storia di quegli anni, della cultura di quegli anni, che valga la pena di riprendere. E quindi da qui, diciamo, no, gli interventi che qua ci sono, diciamo, da un lato appunto una, non so il telefono, è una mia ricostruzione come biografia intellettuale, poi c'è Pino Ferraris con una riflessione appunto sulla sociologia tra Italia e Francia, poi c'è Bianca Beccalli su appunto società e sociologia tra gli anni 50 e 60, un intervento di una generazione più giovane, Paolo Capuzzo, narratore come educatore, e il recupero di un saggio di Nicola Gallerano dell'82, che era un saggio in cui molto aveva capito soprattutto di quanto adesso Campelli diceva rispetto alla condivisione di un progetto, diciamo, no? Che ogni volta è l'incontro tra due soggetti che si scambiano delle cose, ecco, questo è che richiede. Poi c'è appunto la stessa Gabriella Montaldi su tutto il côté artistico di Danilo Montaldi, molto interessante, e poi una serie di interventi su anche di storici, un intervento di Goffredo che è molto interessante, ripeto, che è questo tema della provincia, che secondo me è un tema proprio cruciale che andrebbe studiato proprio rispetto alla storia di quegli anni, a come se ne esce, a come è vissuta, ecco. E Mariella Balzani, che è qui, diciamo, che aveva dedicato che ha dedicato il suo studio a Montaldi e alla cultura popolare, e Bruno Cartosio come studioso di biografia americanista, che appunto ricorda quanto la conoscenza dell'opera di Danilo gli fosse stata utile. Scusate, io ho voluto però ricostruire, diciamo, la traccia di questo, perché mi sembrava importante dire, abbiamo scelto di vederla come storici, ecco, e quanto tu dicevi adesso, è importante capire quanto tutto questo per noi storici conti moltissimo rispetto al, per esempio, alla riscoperta della biografia come modo di fare storia. Ecco, e questo credo che voglia dire molto in questo momento di grande confusione, di fine di grandi narrazioni, di fine di grandi racconti di epoche d'oro. Ecco, no? Siamo qui, non sappiamo bene dove siamo, ecco, cerchiamo di... riusciamo forse a vedere meglio quello che è passato da questo momento di confusione in cui stiamo, forse, e lo riusciamo a fare attraverso questi fili, ecco. Scusa, questi sono... ho imparato moltissimo per questo. Ah, grazie. Grazie. È che l'avevo spento, il povero Enzo parlava, ma non nel microfono. Dunque, io non nego un notevole imbarazzo questa sera. Credo che in questa sala sono uno di quelli che meno conoscono Montaldi, quindi non è, avevo capito bene che non era un discorso su Montaldi, ma era un discorso sul numero di parole chiave, insomma, sì. Diceva Enzo Campelli che lui ha imparato molto da questo numero di parole chiave, io non ho imparato molto, ho imparato tutto. Se devo dire che qualcosa mi era arrivato prima, sì, avevo leggiucciato qua e là le cose dei libri di Montaldi da giovane, insomma, quando erano usciti, ma l'unica cosa che non mi ha sorpreso è stato l'articolo di Goffredo Fofi, i cui contenuti probabilmente per tradizione orale mi erano arrivati tramite Giovanni Mottura, e per il resto per me è stata una scoperta continua e soprattutto l'aver imparato. Io vedo le facce qua dentro, insomma, gente che ha scritto con competenza su Montaldi, oppure che lo ha studiato, lo ha conosciuto, non so che cosa posso dirvi io di nuovo, tranne che probabilmente dirvi qual è l'ottica di uno che è quando di più lontano ci può essere da Montaldi, insomma, come dire, che è tra l'altro profondamente cremonese, come, diciamo, io mi sento profondamente meridionale, insomma, quindi c'è, anche lì c'è un abisso. Ma allora perché ho accettato l'invito di, tra l'altro, che mi è venuto da Lucia, insomma, innanzitutto per cortesia, sostanzialmente, uno non dice mai di no anche quando non è come. Secondo, perché c'era un intreccio con qualcosa di cui io mi sono occupato lo scorso anno, l'occasione erano i 70 anni di Giovanni Mottura, e allora ho messo insieme un po' di persone che si erano occupati dell'inchiesta negli anni in cui di queste cose si parlava, tra cui in particolare devo dire Bianca Beccalli, che aveva già presentato qualcosa su Montaldi, e in realtà, come dire, è venuto fuori che oltre ai contenuti di ricerca importanti di Montaldi c'erano state anche delle riflessioni sulla sociologia da parte di Montaldi. Insomma, come dire, pure per me sociologo può essere considerato un'offesa, ecco, voglio dire. Sociologo viene usato nel movimento comunista o ex comunista come offesa. Tutti ricorderanno che quando il compagno Cossutta doveva dire che aveva detto delle stupidaggini Berlinguer all'epoca dello strappo, dicendo che la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre si era esaurita, condannò l'espressione dicendo che erano considerazioni sociologiche. E quindi, come dire, diciamo, forse per questo, insomma. E io invece, come sociologo, perché bene o male, appunto, credo di dovere molto a quella tradizione che, come dire, ha trovato in Montaldi una delle sue espressioni più forti e migliori, che è la tradizione dell'inchiesta. In Montaldi non c'è solo la biografia, in Montaldi c'è l'inchiesta, scusatemi il termine, proletaria, come dire, non so, quello è Montaldi, tramite la biografia. No, voglio dire, questa cosa, il proletario, a me è un problema, cioè nel senso che è un dato importante da non dimenticare, quello è lui, Giorgio Bellocchio, che certamente non è un proletario, e mi dispiace che non ci sia oggi, scrive nella nuova introduzione, per la precisione, Montaldi parla della proletarizzazione degli intellettuali nel 68, Bellocchi, no? Dice, e anche prima, per la precisione, Montaldi non aveva avuto bisogno di compiere alcun salto in direzione alla proletarizzazione. Nato proletario, aveva scelto di restarlo. Ma questo è ancora più singolare. Qualche borghese che ha scelto di declassarsi l'ho conosciuto, ma intellettuali di estrazione proletaria, che pur avendone possibilità e titoli, abbiano rinunciato alla promozione sociale, preferendo restare dei proletari a tutti gli effetti, non ho mai incontrato nessuno, tra salvo Montaldi. Sicurezza, agi, potere, prestigio non l'allettavano, ma la valeva certo la pena, per quei risibili vantaggi, di perdere il lusso dell'indipendenza, la libertà di fare il lavoro che preferisci, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dopo, vabbè, rientra in cose che voi, l'abbandono della scuola, insomma, cose che tra l'altro è la bellissima, diciamo, come dire, cronologia che fa Gabriella Montaldi sono tutte ben illustrate. Insomma, allora, cos'è che fa Mondaldi? Fa l'inchiesta proletaria, perché si pone da quell'ottica. Questo c'è sia quando studia quel cuore della conoscenza per lui, della sinistra, insomma, che sono i militanti politici di base, sia quando studia questi personaggi così interessanti e così difficili e così lontani che sono quelli dell'autobiografia della Leggera, insomma. Io ho riletto, dirlo a voi che le sapete benissimo queste cose, mi sembra ridicolo, insomma, ve lo dico proprio come uno che ci si è avvicinato. Ho riletto di recente Cicci e mi sono venute davvero delle domande che bisognerebbe fare a Mondaldi se fosse possibile ora, che sono diverse da quelle che farebbe Michele, sicuramente, insomma, nell'articolo. Ho dimenticato di dire che c'è un pezzo di Michele, le domande che vorremmo fare da Mino Mondaldi, ecco perché l'accenno di... Perché, va bene, allora, torno a Mondaldi e alla sociologia. Io sono, come dire, venuto in contatto con la rilevanza di Mondaldi proprio mentre mi occupavo di questo discorso sull'inchiesta che in realtà, come dire, va di pari passo con l'affermarsi della sociologia in Italia. Insomma, allora, che succede? Tutti la sappiamo, la storia forse, però è bene che, come una delle poche cose di cui capisco e mi occupo, di vedere, c'è l'anatema non della sinistra, non del movimento operaio, c'è l'anatema del Partito Comunista Italiano nei confronti della sociologia, ereditata dall'influenza crociana sulla cultura del partito, e poi dopo c'è l'anatema crociano. L'anatema crociano è molto pesante, è molto importante, che è quella cosa contro la quale che Ferrarotti non smette mai di ricordare. E questa è più pesante, tra l'altro, della, come dire, del divieto di sociologia durante il fascismo. Secondo me durante il fascismo non c'è stato un divieto di sociologia. Mangano, tanto Croce e Gentile, entrambi di tradizioni idealiste, non erano interessati a quella cosa. Non è che il fascismo doveva nascondere quello che stava succedendo. Certo, alcune raccolte di dati sono state interrotte, quelle sulla disoccupazione, però le inchieste degli economisti agrari sono state condotte come pure in quegli anni. Ricordo che quando... Enrico, il numero parte da questo, diciamo, nel senso che c'è l'idea che... Non sto polemizzando con il numero. Ah, ecco, per carità. No, no, perché io sto facendo una biografia di Camillo Pellizzi, proprio per dimostrare la cosa. Esattamente, no, ma non so, ma pensate che nel 1944 Rossidoria è commissario del CLN all'INEA e dà una borsa di studio a quello che gli economisti agrari chiamano il maestro Serpieri, che era un nazifascista. Voglio dire, uno nelle lettere a Volpe, dice: se è sconfitto l'asse avremo un nuovo medioevo. Oppure quando dice: la piccola proprietà coltivatrice mantiene intatte le virtù della stirpe. Però voglio dire, Rossidoria conosceva benissimo, ci faceva portare il libro proprio come obbligatorio all'esame di economia e politica agraria. Perché? Perché nel frattempo c'era comunque una grandezza di... E qui è un problema che è quello dell'inchiesta, che l'inchiesta non è solo proletaria, quella di Mondaldi lo è, mentre invece l'inchiesta poi ha tanti altri filoni alle quali ci si può arrivare lo stesso, anche partendo da un punto di vista che non è necessariamente né quello marxista né quello rivoluzionario, insomma. Anche se quello marxista e rivoluzionario, come quello di Mondaldi, ha dato un contributo assolutamente determinante. No, dicevo questo per inquadrare il clima culturale e come la sociologia sofferma e come contemporaneamente alla sociologia, e guardandosi in Cagnesco, però guardandosi anche con amicizia, chi porta avanti l'inchiesta, chi la chiama inchiesta operaia, chi parla di conricerca, chi la fa senza manco porsi il problema di come si chiama, mentre invece Mondaldi si pone il problema. Questo è un elemento molto importante, e leggerò qualche cosa di Pino Ferraris sull'argomento. Allora, tornando a Bomba, quindi nel dopoguerra qualcosa comunque si muove, c'è anche una tradizione, che è questa tradizione degli studi rurali. Dicevo, Serpieri, borsista all'INEA, scrive nel 1946 la struttura sociale dell'agricoltura italiana, che è proprio il risultato finale di questo grosso filone di studi degli economisti agrari. Ed è, da quello nasce pure Rossidoria, e Rossidoria è uno dei canali attraverso i quali l'inchiesta, non l'inchiesta proletaria, non l'inchiesta rivoluzionaria, ma l'inchiesta che insieme all'inchiesta proletaria ha comunque una connotazione comune. Prima che la spinta etica, la volontà di trasformazione e il rapporto con l'oggetto di ricerca. Nell'uno come nell'altro caso, queste per me le tre connotazioni principali. E naturalmente poi, diciamo, c'è implicito, per esempio Rossidoria parla sempre di sporcarsi le scarpe, il fatto che c'è il lavoro di campo, insomma, ma però diciamo questo in chi fa poi le biografie naturalmente la cosa è implicita. Allora, nel dopoguerra appunto c'è questo elemento di continuità, c'è questa cappa assolutamente irritante di tipo non marxista, di tipo comunista, tra l'altro io quello che mi chiedo, e poi dopo ci sono le cose che nascono e vanno avanti. Enzo le ha citate quasi tutte, non ne ha citato uno solo, non casualmente meridionale, che è Rocco Scotellaro. Rocco Scotellaro fa... Secondo me è diversissimo, l'ho citato apposta. Insomma, appunto, invece proprio il discorso che sto facendo io, Rocco Scotellaro neanche si pone il problema della... Per Scotellaro c'è proprio un elemento di metodo, quello è il modo di fare sociologia, che poi dopo, nel fare sociologia, faccia un'opera letteraria bellissima, è un altro discorso. D'altra parte, come dire, involontariamente grandi contributi sociologici escono dalla penna degli autori di opere letterarie, anche se non era assolutamente il loro obiettivo, insomma. Allora, in questo ambito si colloca, secondo me, questa dialettica che c'è tra l'inchiesta che si va facendo, i cui protagonisti, i cui autori non hanno... Scotellaro ce l'ha, poi Scotellaro muore talmente giovane che non può neanche, il libro Contadini del Sud esce postumo, insomma, non ha il tempo di diventare sociologo, non so se forse non ci sarebbe diventato comunque perché avrebbe avuto una fortuna letteraria, eccetera. Comunque, nel frattempo ci sono i grandi contributi, e c'è l'altro Danilo, cose meno profonde, con degli svarioni sicuramente, ma sempre con quel rapporto. Ecco. E lì tra l'altro c'è un problema, la buona inchiesta e la cattiva inchiesta, ecco, diciamo, come dire. Per esempio in questo convegno per Mottura si parlò molto di un po', si parlò un po' anche dell'esperienza di Dolci, e praticamente, come dire, venne fuori come non è che per il fatto che ti sporchi le scarpe, non è che per il fatto che tu ci sei, non è che per il fatto che ti sacrifichi, non è che per il fatto che ti poni dal punto di vista del proletariato o degli oppressi, dei contadini, degli umili, eccetera, eccetera, automaticamente fai del buon lavoro. Certe volte puoi prendere anche degli svarioni. Quindi, come dire, una forma di controllo deve comunque esserci. L'intervento di Vittorio Risero a questo convegno fu proprio su questo. Citava il famoso questionario di Danilo Dolci: Dio vuole che tu sia disoccupato. Dio vuole che tu sia disoccupato. È chiaro che una domanda che comunque non devi fare. Vabbè. Si va avanti, altre persone naturalmente si cimentano, non con l'inchiesta. Cioè, non credo che, per esempio, voglio dire, Goffredo è qua presente, l'ho sempre detto anche in sua assenza, il testo paradigmatico della dialettica tra inchiesta ricerca sociologica e inchiesta è proprio il confronto tra il testo di Goffredo, L'immigrazione meridionale a Torino, e poi contemporaneamente c'è l'unica opera sociologica compiuta sull'argomento, che è L'integrazione dell'immigrato nella società industriale di Alberoni e Baglioni. Ecco. Due sociologi di vaglia che nessuno si ricorda, tranne un concettino, che è quella socializzazione anticipatoria, a che serviva quel libro. Il libro di Goffredo se lo ricordano tutti, ma non per la storia del libro, che è anche interessante, ma perché c'era la rappresentazione di fatti che diversamente non si sarebbero conosciuti, che era dovuto al modo di porsi, alla spinta etica, allo sforzo, al mettersi dalla parte di quella cosa che io Pure Enzo si è trovato in difficoltà a dire dell'oggetto di ricerca, ma non è oggetto di ricerca se è quella cosa con la quale ti identifichi. Si parlò molto negli anni 60, pure nei quaderni rossi, tantissimo, di con ricerca, ecco. E beh, in realtà, come dire, c'è qualcosa di particolare in questo rapporto che nella sociologia, come scienza, come disciplina istituzionale, non è assolutamente codificato, insomma. Quando poi la sociologia va avanti, a un certo punto di queste cose non si parla più, il termine con ricerca è scomparso, ecco. A me invece resta qui. Vediamo invece, tornando a Danilo Dolci e al numero della rivista, com'è questa storia sempre della sociologia. Penso che se ne occupano un po' tutti, se ne occupa Bianca Beccalli da un certo punto di vista e dall'altro punto di vista, cioè di Montaldi come competente in materia sociologica, si occupa sociologica proprio come disciplina, non parliamo del suo modo di studiare la realtà sociale, ma del suo modo, dice, scrive, è l'inizio del testo di Pino Ferraris. Nel leggere il resoconto del primo congresso nazionale di scienze sociali del 58, che Montaldi pubblica sulla rivista storica del socialismo, mi hanno folgorato l'acutezza e l'anticonformismo del suo giudizio sulla sociologia cattolica in Italia in quegli anni. Dice, vabbè, attraverso il testo vediamo subito che le querelle dei filosofi non riescono a deporre inutili ovuli nel seno di una pratica sociologica ben sperimentata come quella cattolica, che è un altro dei filoni che, insomma, non essendo né condizionato dal crucianesimo né dal gentilianesimo né da né da una certa forma di autoritario marxismo, va avanti lo stesso. Uno dei motivi dell'efficacia consiste nel fatto che già sul terreno teorico, anziché mettere in questione la sociologia generale, gli studiosi e i ricercatori religiosi riescono a coordinarla, eccetera, eccetera. E conclude con una frase, con una delle più belle, tra le bellissime che uno ha potuto leggere in Montaldi, che è la seguente. A proposito del marxismo dogmatico, scrive Montaldi, ne deriva che il corpo mistico dimostra di avere assai meno superstizioni nel senso del sacro di quanto ne abbiano sovrastrutture che pretendono all'ortodossia ideologica. Insomma, praticamente come il corpo mistico della tradizione comunista era a questo punto di vista più presentemente in chiave antiintellettuale, eccetera. Dopodiché Montaldi conduce i suoi studi e interloquisce con i sociologi, interloquisce con, poi non so manco se loro sono sociologi, perché Pizzorno è sociologo, a tutto conto ci mancherebbe altro, ma Armanda e Roberto Guiducci sono sociologi oppure cosa sono? E a questo punto viene fuori un altro tema, ma è importante proprio essere sociologi, cioè, per cui, come dire, anche la cosa, che il problema che si pone a Bologna, che era un'offesa chiamarlo sociologo, sì, forse perché è riduttivo, insomma, è lì c'è questo interloquire continuo tra i Guiducci e Pizzorno, che tendono di portare questo personaggio sostanzialmente ingovernabile dentro un ambito sostanzialmente, diciamo, di canoni disciplinari, e lui invece che ha un suo canone che non è un canone disciplinare ma è un canone di rapporto sostanzialmente di classe, che poi è lo stesso problema. Non c'è un'opposizione alla sociologia, e qui voglio aprire un'altra parentesi. Di tutti quelli che conducono ricerche sociologiche, che io ritengo tali, cioè ricerche di rilevanza per i sociologi, ricerche che illustrano la società, e se non è sociologico questo non so cosa lo sia, ce ne fosse, che però hanno il coraggio di dire, di chiamare le cose sociologiche, ce ne fosse uno del partito con il quale io mi sono sempre identificato, il Partito Comunista, insomma. Voglio dire, Montaldi, e la sua biografia politica è notissima, tra, non so se si può dire estremismo politico, comunque, anzi, usa finanche il termine dispregiativo preso dai francesi psist, per dire i comunisti dicono i piccisti, quindi più lontano che così, insomma, e poi la sua biografia è nota, Scotellaro, e poi diciamo si Barbalicet, Goffredo, sono tutti quanti praticamente eretici. La sociologia nasce, la ricerca sociale, la ricerca di campo, Franco Ferrarotti che ha fatto le cose importantissime, insomma, non è che ha fatto solo il libro su Veblen, già faceva lavoro di campo, eppure lui nasce tra un orientamento anarchicheggiante e il rapporto con Odriano Olivetti, oppure sotto Olivetti, non c'è in tutto questo nessuno che abbia l'imprimatur della cultura comunista italiana. Eppure io mi chiedevo a Luciana Castellino l'altra volta, ma dove le pubblicavano? Quelle le inchieste le facevano. Certo, io posso dire che su Cronache Meridionali uscivano le inchieste sulle condizioni delle raccoglitrici di ulivi, ma tutto quel grande lavoro che si faceva nel partito, nelle sezioni, che pure portava alla conoscenza della condizione dei lavoratori, cosa diavolo ne facevano? Perché un libro sul tema non l'ho mai visto, non solo si poteva chiamare pure non sociologia, ma non c'era proprio, perché il guaio non era solo che si rifiutava sulla base dell'equivoco che era o scienza borghese o pseudoscienza o americanata, ma poi in realtà questo atteggiamento negativo nei confronti di questa disciplina nuova, in realtà finiva anche per tradursi in un orientamento negativo nei confronti di qualunque tipo di ricerca sociale, di indagine di campo, quale che ne fosse la sua, diciamo così, la sua supposta cornice disciplinare invece. Ed è proprio invece in questi ambiti più diverso, e questo è importante da questo punto di vista, è il discorso dentro il movimento operaio organizzato, dentro il sindacato, sia perché, come è noto, c'era la CISL che già aveva questa tradizione, cioè anche, come dire, anche noi sociologi di sinistra ci riunivamo e ci chiamavamo gruppo laico e ci riunivamo alla CISL quando nelle nostre riunioni di frazioni accademiche, quindi questo la dice lunga sull'importanza di questo filone, ma c'è la tradizione, c'è l'apertura del movimento operaio, c'è l'apertura, e questo praticamente, e sono molto interessanti le cose che scrive Bianca Beccalli quando dice a un certo punto, il discorso di Bianca lo potete leggere qua dentro, lo racconto meno bene di come lo fa lei per iscritto, dice beh, a un certo punto, come dire, succede qualche cosa, c'è la sconfitta alla Fiat, bisogna cominciare a chiedersi cosa sta succedendo, hai bisogno anche di strumenti concettuali nuovi. E secondo Bianca, e io penso che ci abbia visto bene, la sociologia offre anche degli strumenti analitici che altrove non erano disponibili. E quindi questo comporta, oltre che una affermazione della sociologia, anche, come dire, un'accettazione dentro il movimento operaio, dentro il sindacato, per intenderci, che arriva circa 10-15 anni prima che nel partito. Poi nel partito c'è prima la fase, come dire, colleziana, per cui come dire, l'unica vera sociologia è il marxismo, no? Perché è un modo per, come dire, assorbire, denaturare, oppure l'altro, finalmente, insomma, c'è la polemica fino a che la cosa si stempera definitivamente e la sociologia rientra nel Partito Comunista. Su questo tu pure hai scritto, mi pare, su questa tematica, ci entra con le, veramente, tra l'altro, non avendo studiato la sociologia, ci entra con tutti i difetti di quelli che Wright Mills ha chiamato l'empirismo astratto, cioè l'indagine di campo, l'indagine su vasta scala con questionari, senza una sufficiente riflessione teorica generale, perché la riflessione teorica generale non era compito di questi quattro scafessi un po' filoamericani che erano i sociologi, ma era compito semmai dei filosofi, ecco. Allora, tornando al volume, io, come dire, vado a concludere, insomma, in questo volume l'ho letto sostanzialmente con l'ottica del sociologo che voleva capire cosa stava succedendo e poi quali erano stati quelli che avevano dato contributi a questa disciplina e dove andiamo a parare ora. Allora, le domande che vorremmo porre a Montaldi. Allora, comincio, quei personaggi non ci sono più. Già, per esempio, diciamo, se voi vedete, sarebbe interessante, già domande tra l'altro che si potevano porre a quel momento stesso. Pigliate il personaggio di Cicci, che è la prostituta contadina, cioè, le due vite, quella di prostituta e quella di contadina. Lei ha una doppia vita inaccettabile. Quella di prostituta che non si divertiva a fare e quella di contadina piena di stenti che non si divertiva a fare. E poi dopo, scrive Giorgio Bellocchio nell'introduzione, si augura per i figli, per la figlia, una vita, lasciamo stare quella di prostituta che è esclusa, non come la sua, piena di stenti, priva di mezzi, piena di stenti. Però, leggendo, diciamo così, come dire, Bellocchio non aveva fatto caso alla conclusione, però alle ultime parole di Cicci, quando dice: noi non avevamo niente, questi giovani hanno tutto. In realtà quello che cambia radicalmente è che in questi scritti di Montaldi ancora non è avvenuto, è il benessere. E il benessere, cioè il problema è che c'è poi qualcosa di completamente nuovo che è venuto dopo, che non fa correre alla figlia di Cicci il rischio di dover fare la prostituta per povertà o di dover fare continuare la vita di contadina, una vita di stenti per povertà. Uno potrà fare qualunque errore, potrà fare qualunque scelta sbagliata, ma non sono più quelle condizioni. Allora noi cos'è che andiamo ricercando? Allora, l'altra domanda che mi viene da porre la seguente. Io personalmente non mi sento rivoluzionario, non so manco se bisogna fare più l'inchiesta proletaria, non so se bisogna acchiappare il proletariato, e quindi in realtà, però per gli stessi motivi per cui io avevo trovato dentro l'inchiesta un filone che non era quello rivoluzionario, radicale, di sinistra, collegato al movimento operaio, che non è necessariamente l'inchiesta operaio, ma che aveva anche un'origine di tipo diversa, di tipo riformista, ecco. Ora invece con che ottica ci mettiamo? Come si metterebbe Montaldi ora nei confronti dei nuovi interlocutori? E soprattutto chi sono questi nuovi interlocutori? Io quando mi chiedo chi possono essere questi, i nuovi soggetti dell'autobiografia della leggera e soprattutto i nuovi soggetti dei militanti politici di base. Queste sono le domande che io mi porrei. E il ricercatore con che ottica si mette se non è più l'ottica del radicale mutamento dello stato di cose esistenti, insomma? Cioè, qual è il compito di chi fa l'inchiesta oggi? Queste sono le domande che io mi sono posto, diciamo così, pensando a Montaldi dopo aver visto il libro. Grazie. Vi darei la parola poi dopo, se penso che qualcuno potrebbe intervenire, insomma, a parte Goffredo che è stato chiamato in causa decine di volte, ci abbiamo un sociologo che non ha partecipato alla discussione, la famosa sociologa, abbiamo i cosiddetti giovani, quindi... Abbiamo Gabriella Montaldi, se vuole dire qualche cosa. Mariella Balzani? Sì. No, ma Mariella c'è nel numero, e questo è un po' questo, era per quello, pensavo a quelli che non... Carlo De Maria. No, vieni qua, scusa, perché poi altrimenti viene... Grazie. Io provo a partire da avvicinandomi a Montaldi, provo a partire da qualcosa che conosco. Scusate, preciso che è un giovane storico. Ma dici che è storico, giovane, vediamo da solo. Beh, già autore di due biografie, peraltro, per quello che di due storie biografiche, una di Camillo Berlini e una di Schiavi, appena uscita. Grazie. No, se avessi l'occasione di mettere le mani sulle carte dell'archivio Montaldi, io sarei interessato a verificare se vi è una filiazione o comunque qualche riferimento tra il lavoro di ricerca di Montaldi e la tradizione dell'inchiesta sociale che si sviluppò tra 8 e 900 nel socialismo italiano. Io penso in particolare all'ambiente della società umanitaria di Gnocchi Viani, di Montemartini, dello stesso Alessandro Schiavi. Avendo letto le inchieste sociali della società umanitaria, posso sicuramente tracciare delle differenze evidenti rispetto al lavoro di Montaldi. Ad esempio, il prevalere nelle inchieste dei socialisti riformisti tra 8 e 900 della fiducia e della cura per il dato statistico, che veniva poi ricondotto a un'interpretazione generale del processo di modernizzazione e quindi con i problemi dell'urbanizzazione, dell'industrializzazione, delle migrazioni interne, mentre nelle inchieste dell'umanitaria non si trovano, che cosa non si trova, che invece è forte in Montaldi? Le storie, i percorsi individuali, i percorsi irregolari. Cioè in Montaldi si trova tutto quello che è irriducibile a uno schema interpretativo univoco, cioè i percorsi individuali. In effetti leggevo, sono andato a riguardarmi la collezione dello Straniero, perché poi per trovare qualcosa sugli eretici degli anni 50 e 60 la fonte migliore rimane lo Straniero di Goffredo Fofi. E leggevo alcune lettere che Goffredo ha pubblicato, lettere di Montaldi, pubblicate nel 2006. In una di queste, in una lettera del 57, Montaldi dice: se tendo ad essere qualcosa, tendo ad essere uno scrittore. E quindi la passione appunto per la narrazione biografica e autobiografica, lo ricordava anche Mariuccia Salvati nella sua introduzione. Per quello che posso capire di Montaldi, nel suo lavoro, a mio parere, è fondamentale la dimensione affettiva, la componente affettiva, una componente affettiva che ha, come è stato notato, ha come punto di partenza gli amici anarchici del padre. C'è una bella intervista pubblicata dal mensile Una Città, intervista a una studiosa di Montaldi ricordata da Mariuccia, che è Costanza Bertolotti, che mette proprio in rilievo l'importanza iniziale di queste amicizie del padre, che sono una sorta di formazione per il giovane Montaldi. E del resto già Bakunin aveva individuato nel brigante il ribelle e l'eroe popolare per antonomasia, quindi nell'irregolare, nel brigante, l'eroe del popolo. E quindi Montaldi ritorna a questo elemento, questo insegnamento dei maestri anarchici della rivoluzione, diciamo così. Per concludere, ritornando sempre a un numero dello Straniero, Goffredo Fofi ricordava una lettera che Capitini gli scrisse nel 61, nella quale Capitini scriveva a Goffredo: tutti fanno inchiesta, appunto nel 61, tutti fanno inchiesta e nessuno lavora per cambiare concretamente le cose. Quel monito, notava Goffredo, per me è stato decisivo. E allora ritorna il discorso che è stato nominato, è stato accennato, a cui si faceva accenno anche in precedenza, tra l'inchiesta buona e l'inchiesta cattiva, ovvero tra l'inchiesta finalizzata alla riforma o alla buona pratica o al ben fare, e invece l'inchiesta che, come dire, rimane fine a se stessa. Grazie. Vorrei però fare subito una, scusate se mi interrompo, Però vorrei fare una precisazione, perché credo che sia importante. Costanza Bertolotti fa questi richiami agli anarchici dell'Ottocento, alla figura del brigante. Ecco, non è assolutamente così. Io credo che sia profondamente sbagliata questa voler far risalire perché piuttosto parlerei appunto nel caso di Montaldi di una... di homme révolté à la Camus, cioè lui è profondamente del suo tempo, profondamente consapevole del suo tempo, anche nella leggera, anche per quello che ricordava Pugliese, consapevole che queste figure stanno scomparendo, e forse proprio per quello che sta raccogliendo queste memorie, ma è proprio del suo tempo, per cui io userei appunto queste altre espressioni, ecco, le espressioni che lo avvicinano a Camus, che lui ammirava moltissimo. Ecco, non all'Ottocento, o i cosiddetti segnalatori di incendi di Benjamin, di cui parlava Benjamin, cioè il guastafeste, ecco, quello che ti fa capire che sì, andiamo verso il progresso, però insomma non è che possiamo siamo tanto felici, ecco, no? Cioè è proprio questa figura insomma che lui usa. Ecco, secondo me Costanza, che è bravissima, fa un'operazione risalente, ecco, a un anarchismo tra l'altro un po' astorico, ecco, semmai c'è il filone dell'anarcosindacalismo che poi confluisce il socialismo barbarì, quindi insomma non è che cioè ci sono delle cose storiche precise, ecco, qui noi storici dobbiamo stare un po' attenti, ecco, scusate se sono intervenuta, ma credo che questo sia importante da chiarire, perché questa immagine un po' poi dopo sul romantico, ecco, è quanto di più distante ci possa essere da una figura come Danilo Montaldi, insomma, ecco. E qui c'è il dibattito tra storici, scusate se ci siamo intromessi, però credo che no, sia... No, ma pure noi sociologi capiamo queste cose. No, però ognuno ha le sue dinamiche, no? Grazie, scusami Carlo. Chi vuole intervenire? Goffredo, ci stai? Mariella, non so. Sì. A me mi vengono in mente anche alcune contraddizioni che ci sono in Montaldi, che sono venute fuori forse troppo poco. Per esempio il problema dell'organizzazione, che Montaldi si pone sempre, anche quando in chiave ereticale nei confronti del partito, no? Parla la storia del Partito Comunista che lui ha scritto, è una storia di ciò che il Partito Comunista avrebbe dovuto essere più che di quello che realmente è stato, insomma una continua critica della realtà, delle scelte fatte dal PC. Però c'è sempre questa sorta di dialettica tra il dovere dell'organizzazione, in qualche modo, e quindi un richiamo leninista, c'è, in Montaldi c'è anche molto forte, e poi invece questa tensione libertaria, anarchica, camusiana, populista perfino, no? Che gli viene dalla tradizione padana, quando la Padania era una cosa seria. Non so, io mi ricordo che prima di leggere l'autobiografia della Leggera ho letto un libretto che si è ripubblicato dalle edizioni del Gallo, cioè Bosio, Frizzi, il ciarlatano, te lo ricordi? Beh, è un libro straordinario, l'ho fatto anche, l'abbiamo ripubblicato tanti anni fa dentro un numero di una rivista di teatro, perché era l'autobiografia di un ciarlatano di piazza che però va a fare anche il galoppino elettorale per gli onorevoli che gli danno qualche lira purché siano di tendenza socialista, che insomma è un'autobiografia della Leggera di fatto, capito? Di un avventuriero padano, di quelli che ancora li vedi, non so, in un film come Ossessione di Visconti, vedi questo tipo di personaggi che girano i mercati, che vanno, e che sono anche l'elemento di disturbo all'interno di una società, quelli che rompono un po', sono i guastafeste per l'appunto, sono anarchici non nel senso della militanza anarchica, ma nel senso di un individualismo però di segno solidaristico, populista per l'appunto, non individualistico nel senso in cui noi siamo abituati a chiamarlo. In qualche modo io ho letto l'autobiografia della Leggera anche in contrapposizione a un libro che detesto, sempre detestato, che è Operaio e Capitale. No? Cioè da un lato c'era l'operaio con la O maiuscola, no? La classe con la K, insomma, c'era l'astrazione della figura operaia. Lo dico anche perché ne ho sofferto ai tempi dei Quaderni Rossi, ero il populista dei Quaderni Rossi perché mi occupavo degli immigrati invece che dell'operaio. L'immigrato era degno di studio nel momento in cui entrava in fabbrica, fino al giorno prima no, quando era nelle piccole fabbrichette intorno alla Fiat, quelle che poi hanno fatto la rivolta di Piazza Statuto, non contavano, era solo l'operaio Fiat che Asor Rosa, Negri e Tronti idolatravano e mettevano su un piedistallo, l'uomo di marmo di Vaida, del film di Vaida, l'uomo di marmo dello stalinismo. Un'altra contraddizione che vedo era nel fatto, per esempio, un libro come Milano Corea, adesso a distanza di tempo lo posso dire, a me non mi piacque per niente, all'Asia lo conoscevo, ero stato in Sicilia con lui, lui era, come dire, era talmente suggestionato dal personaggio Dolci che parlava come Danilo, si muoveva come Danilo, diceva le sue, insomma era una sorta di doppio, capito? E naturalmente nel pieno del boom, mentre il boom sta esplodendo, perché Milano Corea racconta la Milano, no, della trasformazione rapidissima che c'era, che cosa va a studiare? La marginalità assoluta, no? E in qualche modo di quel libro c'è come, sono due libri, il libro di Milano Corea è un libro vecchio, la parte di Alasia, la parte di Danilo è un saggio su Milano e le trasformazioni di Milano e le trasformazioni della, come si può dire, del popolo milanese, no? Che esula in qualche modo da quello che c'è dopo, cioè c'è anche proprio un rifiuto di quella, cioè qui c'è il sociologo, il grande sociologo, antropologo, rifiuto dell'estetismo populista, non del populismo quello ottocentesco dei socialisti, diciamo, che era un'altra cosa. Vabbè, basta, questo... No, vabbè. Grazie. Dunque, di Carlo? Vuoi dire qualcosa? Maieria, ti scrivi? Va bene, Mariella dopo. Tra le tante cose che avete detto, tutte molto interessanti, mi viene in mente il problema del sociologo che fa l'inchiesta. Loro dicevano, ma il rapporto con l'oggetto, che poi non è l'oggetto, allora tanto non è l'oggetto, quindi è un soggetto, no? E quindi la peculiarità dell'inchiesta è che è un rapporto tra soggetti, diciamo, dovrebbe essere. Ma sembrerebbe che oggi questo alter ego del ricercatore non esista più, cioè non avrebbe senso andare al popolo, no? Dopo le trasformazioni pasoliniane sembra che non sia più possibile quel rapporto non romantico, io sono d'accordo con te, non c'entra molto quello, ma comunque in qualche modo nemmeno naive, ma appunto basato sull'idea che lì c'era una forza genetica della storia e che quindi valeva la pena di andare in quel senso. Ma forse tra i tanti populisti, i populisti russi nel senso dell'andare al popolo, naturalmente con la consapevolezza politica di uno come Montaldi che non faceva queste operazioni certamente su una base ingenua ma molto riflessa. Ma sembra che questo oggetto oggi, così trasformato, non permetta più questo movimento nella sua direzione. Che cosa incontreremo nell'ipotesi, no? Supponendo che sia vero, che poi di queste cose, diciamo, noi sociologi non sappiamo niente, forse qualche antropologo, o forse appunto qualcosa che si può ricavare più dalle attività nel sociale svolte da varie organizzazioni, così, delle varie periferie, ma insomma noi in sostanza non abbiamo una chiara nozione, a parte le descrizioni appunto di Pasolini, che però risalgono ormai a loro volta a 20 anni fa, che cosa sia successo lì. Per esempio, un'ipotesi potrebbe essere questa, che questo popolo, chiamiamolo pure lì, questo alter ego di colui che conduce l'inchiesta, in realtà è diventato molto brutto, sporco e cattivo. Si è omologato per un certo verso, si è molto incattivito, per esempio la presenza della criminalità organizzata è pervasiva, o comunque di comportamenti illeciti come parte costituente, ma illeciti alla grande, non in quel senso spicciolo per campare, cioè di non pagare magari il bicchiere di vino all'osteria, no? Ma alla grande invece, e quindi questo ha corroso questo oggetto. Poi direi, in una fase più recente, forse connessa all'andamento del ciclo economico, non soltanto della crisi attuale, ma già da qualche anno, è venuto un fenomeno strano che si può osservare più dai comportamenti che da una reale indagine sulle figure sociali. Cioè, una specie di questo popolo, comunque, accedendo al problema che diceva giustamente Enrico, al benessere materiale, si è trasformato nel senso che andrebbe descritto più dettagliatamente, e quindi in questo senso si è spostato, non è più una possibile controparte dell'inchiesta comunque, ma soprattutto nella fase più recente ha subito una trasformazione che poi potrebbe spiegare alcune delle cose politiche che ci stanno succedendo, cioè una riplebeizzazione di una parte di questo popolo, perché soprattutto nella tradizione meridionalistica il grande rischio era sempre stato questo, cioè il popolo, le masse, ma sostanzialmente la classe operaia o comunque i lavoratori, quindi il bracciante, l'operaio, ok, ma il resto, la popolazione dei quartieri urbani degradati, non classificabili sociologicamente o marxisticamente, sono plebe. Il rischio del plebeismo nel Partito Comunista Meridionale era sempre stato molto sentito, ma quando negli anni 70 io cominciavo a occuparmi un po' di queste cose con Enrico e gli altri, insomma, era chiarissimo che questo popolo cessava sempre più di essere plebeo. Invece oggi, dopo 30 anni, curiosamente, una dimensione plebea, io forse andrebbe capito cosa vuol dire. Diciamo, per esempio, in certi pezzi di Napoli, in certi pezzi del Mezzogiorno, certamente con una forte componente paradossale dal punto di vista sociologico, cioè che la piccola borghesia meridionale è plebea, è ridiventata plebea nei gusti, nei comportamenti, nelle opzioni politiche. Quindi in questo senso l'inchiestatore, non il sociologo, perché sennò è una parola offensiva, non ha più un partner, non ha lo sparring partner, diciamo, del suo lavoro. E per questo forse oggi l'inchiesta non so come potrebbe, a quali condizioni potrebbe essere compiuta. Tant'è vero che si lavora, però di nuovo in questo senso forse Fedele ha qualche insegnamento implicito in Montaldi sui margini, cioè su piccole frazioni di questo popolo che si è differenziato, pensando non tanto che questi piccoli settori possano essere attori di un mutamento alla grande, come poteva ancora pensare lui, in un'ottica di movimento operaio, socialismo, eccetera, ma comunque portatori di una capacità di resistenza all'omologazione e specificamente direi al rischio del populismo nelle sue forme politiche attuali. Grazie Carlo. Sì, io vorrei, sì. Chiara, vieni. Sì. Sì, volevo solo dire una cosa a questo proposito, mi sembra interessante che diceva Donolo. Sull'ultimo numero di Una città c'è un articolo di Salvemini sulla piccola borghesia plebe, diciamo sul giovane Cocò all'università, che è incredibile, diciamo, quanto appunto a plebe, primi anni 10 del secolo, per dire. Seconda cosa avrebbe, chi avrebbe intervistato? Io ho trovato solo un pezzo di Montaldi, che è quello che ho pubblicato qui, che è quello Cronaca Nera. Gli impiegati già appunto Danilo non intervisterebbe, cioè li racconta in maniera quasi appunto da scrittore, ecco, insomma da Mianciardi, insomma, ecco, scusami Chiara, prego. Chiara Giorgi, storica, non dico giovane perché si vede. Ma io soltanto una cosa, nel senso che leggendo questo numero che mi è piaciuto moltissimo, una cosa che mi ha colpito, a parte diciamo questa l'importanza del genere biografico che reputo anch'io assolutamente fondamentale, bello e insomma ricco e da riscoprire, Però accanto a questo, forse appunto dico una cosa un po' assurda, però la figura di Montaldi mi ha evocato un po' una serie di tematiche che ho desunto anche grazie alle cose che ha fatto la Fondazione Basso dagli studi postcoloniali. E forse non è un caso che anche uno di coloro che ha scritto, Paolo Capuzzo, appunto nello scrivere di Montaldi ha anche un po' evocato tematiche affini, diciamo, a questa che cosa intendo per studi postcoloniali? Cioè, una domanda che io porrei oggi a Montaldi è quella: come dare appunto parola a chi non l'ha? Che poi è il problema che Mariuccia scriveva nell'introduzione del linguaggio, e anche che direbbero gli studiosi postcoloniali della traduzione per certi aspetti. Questo è a me il tema che più anche affascina, e mi colpisce come ci sia una continuità da quando scriveva Montaldi a oggi, che insomma è passato non tanto, ma per certi aspetti, vissuto quello che è successo, tantissimo, rispetto a questo grande tema, che poi è il tema della soggettività, della soggettivazione, e quindi appunto come in qualche modo i soggetti che lo stesso Montaldi poi fa parlare, trova appunto il modo nella problematica, appunto chi parla, io che racconto, il soggetto che parla direttamente, è quello di una soggettività appunto che poi entra in tensioni, non è mai residuale, non è mai appunto ai margini, ma riesce a farsi soggetto politico. A me questa cosa mi ha molto sollecitata, colpita, proprio perché appunto in realtà è una tematica che ritrovo ancora oggi, ovviamente in chiavi diversi, in modi diversi, non è che, però come dire, c'è una continuità anche in questa domanda e anche nella problematica che emerge, ecco. Grazie. A questo punto Mariella sul linguaggio mi pare che sei sì, Mariella Balzani, che ha scritto appunto il saggio su una cosa rapidissima. In questo studio di parecchi anni fa, insomma, io ponevo due problemi soprattutto. Uno, il ritorno ai testi, perché erano anni in cui ci si ammazzava sulle introduzioni, ma sembrava che le introduzioni fossero il tutto. E dimenticando, trascurando invece la ricchezza, la complessità anche del proprio culturale e linguistica dei testi. E quindi questo era il primo problema. In particolare i militanti che io ho amato intensamente, insomma c'è un particolare coinvolgimento, diciamo. E tra l'altro non sono presenti nelle librerie ancora oggi, e mi sembra veramente un vuoto, non dico la damnatio memoria, ma insomma mentre c'è una grande attenzione sulle autobiografie. E quindi il primo era leggere Montaldi partendo da ciò che proprio dalla conricerca, ecco, quindi la conricerca è un'empatia tra due persone e sono in gioco tutte e due, insomma. E quindi qui l'altro problema è Cicci, sì, Margit, Bigio, Nino, Margit e Bigio soprattutto sono i grandi amori, ma anche la sapienza linguistica, culturale di Montaldi. E quando Pasolini dice che le autobiografie sono una cosa stupenda, più da un punto di vista estetico che sociologico. Adesso, per carità, prima era una carognata dargli del sociologo, adesso diventa una cosa così un po' peccaminosa dire che era un grande scrittore, no? Ecco, non lo so, io Montaldi lo sento vivo e coinvolgente proprio per questa pluralità di angolazioni, di possibilità di lettura. E quindi penso che bisognerebbe lavorare ancora in questa direzione, e siccome la signora Montaldi ha fatto questa cosa stupenda di questo archivio eccetera, sarà possibile poi vedere gli appunti, le carte eccetera, e questo è il lavoro che ci attende. Sì. Sì. Mariella, vieni. C'è un bellissimo registro fatto appunto da Costanza Bartolotti, purtroppo non è in rete. Ma cercheremo di farlo, meglio di Stato di Tremonti. Lo sarà. Si può consultare. citare sono sulle 5.000 lettere, sono appunti e vari menabor scritti a mano, sono più di 20 menabor dove si può proprio andare a fondo a studiare Danilo Montaldi e insomma c'è un materiale vastissimo, vastissimo, molto complesso, insomma e invito tutti quelli che vogliono a andare a Cremona, insomma spero che finirà anche la rete in modo che sì, senz'altro, quella si possa sapere. La villa salvata. Magari. Io non sono ormai purtroppo ho lasciato tutto. Pino, vuoi dire qualcosa? Secondo me sì. Sì. Dai, vieni qua per favore. Pino, dai. Poi diamo la parola. Di là di quello lì. Beh, ma non tutti l'hanno letto, Pino. Anzi, quasi non tutti l'hanno letto, vieni da lì. L'hanno letto ancora? Tutti lo leggeranno. Certo. Ma no, era bene. La cosa più che mi aveva colpito è proprio questa sua, il non sociologo che ha una capacità di subito, no, all'inizio di autoriflessione sulla sociologia, che è straordinaria, insomma, perché vorrei dire che il problema dell'influenza del lato francese, direi, no? Della società cattolica, no? È totalmente ignorato, secondo me, direi. Uno, ti ho detto, i nomi che faccio lì, dico, padre Lebré, insomma, che poi attraverso la Svimet ha influenzato la ricerca del Mezzogiorno, dico, noi non vediamo, non c'è, ma vorrei dire ancora tutto il movimento domenicano, no? Direi l'altro che cito è questo di economia e umanismo, soprattutto, che io ho incontrato tardi, negli anni 70 e cose di quel genere, però ho mandato i testi vecchi e quindi sono potuto andare indietro, insomma, no? Ma questo lato, soprattutto poi ci sono alcuni punti precisi, il Jacques Loewe, no, che ha scritto questa prima indagine qualitativa, altro che partecipata, ha fatto 12 anni il portuale al Marsiglia e poi ha scritto l'analisi qualitativa di coricerca, chiamiamo così, sui portuali di Marsiglia, padre Domenicano. Però attenzione, questo aveva un rapporto diretto con Reginaldo Santilli. Reginaldo Santilli era il priore domenicano di Santa Maria Novella, il quale è quello che ha dato il timbro, l'imprimatur, per la pubblicazione dell'esperienza pastorale di Don Milani. Ecco, vorrei dire, allora, tutti questi fili, che, ecco, è tutto un lato, direi, totalmente da rimettere, vorrei dire che neanche i cattolici hanno messo. Uno come Barbano, per esempio, lui ha negato se stesso. Cioè, praticamente, io ho parlato con quelli della FIM di Torino, dice, ma Barbano veniva a farci lezioni molto avanzate, prendeva dai francesi, da Friedman e cose di questo genere, il macchinismo industriale e cose di questo genere. E poi si nega, insomma. Insomma, io cito ancora una cosa, per dire l'influenza anche contemporanea di questo. Io sono rimasto sbalordito quando, rivedendo, io vi dico francamente, io su Sociologia du Travail sono cresciuto sulla rivista su Sociologia du Travail, ecco. A questo punto Sociologia du Travail nel 79 celebra il trentennale della sua fondazione e ringrazia, chi ringrazia? La rivista della Cattolica, no? Che è l'unica che ha ripreso direi questa celebrazione e gli ha dedicato una monografia su Sociologia du Travail. Qual è la rivista cattolica? Allora, quella famosa, come si chiama adesso? Quella Gemelli, di Padre Gemelli, di sociologia. Sociologia della studio. Studi. No, scusa, io non ho gli occhiali, ma qui, no, quelli sono. No, il quello è la sono, scusate, non siamo molto forti. Studi di sociologia, studi di sociologia. Ecco, ma comunque il problema è che Sociologie du Travail, il trentennale di questa rivista, direi di cui noi ci siamo, meno io personalmente, non sono nutrito, debba essere non da quaderni di sociologia, non da rassegne di sociologia, ma da studi di sociologia, ricordate, vi dice tanto sull'intreccio prolungato che c'è fra questo, mentre noi abbiamo sempre detto che la sociologia cattolica veniva dall'America, era meglio le human relations, era la colonizzazione americana e cose di questo genere. Allora qui c'è proprio un problema, direi, lui o aveva intuito, io pongo il problema, o aveva, seguendo Esprit, seguendo tutta questa cultura francese cattolica, aveva saputo queste cose, però immediatamente nel 58 pone un problema di storia della sociologia che in parte noi non abbiamo ancora affrontato. Questo è uno degli elementi per dire non solo sociologo, ma quello che rifletteva sulla sociologia. Ecco, io poi c'ho una cosa che non ho risolto, cioè un tormentone sulla questione di Danilo, insomma, no? E soprattutto sull'attualità, no? Cioè, lui non solo pone la leggera e i militanti, ma poi, quando riprogetta con i torinesi, scrive con Ciafaloni, così, per la nuova ricerca sui nuovi operai e cose del genere, ripropone questa doppia figura, cioè gli operai sbandati e gli operai militanti sindacali. Ecco, io qual è il punto, direi, perché ripropone sempre questo elemento? Ecco, io vi dico francamente, non parlo come sociologo, parlo come politico, ex politico, no? Come persona che ha fatto politica. Ecco, se devo vedere i grandi movimenti di urto, chiamiamo così, cioè qui c'è tutto un discorso sulle generazioni storiche, le generazioni che quindi hanno una esperienza eccezionale di rottura, come per esempio la generazione della Resistenza o come la generazione del 69, no? Ecco, in queste generazioni operaie vedo dei destini diversi nella gradazione fra spazi di apertura verso la militanza e spazi di e spazi della leggera, chiamiamo così, vorrei dire, gli operai nell'urto torinese della Resistenza, cioè le strutture politiche, diciamo persino amministrative, cose di quel genere, cioè del movimento operaio, hanno fatto sì che una larga parte dell'urto operaio diventasse militante, e una minima parte, sono anche questi, i partigiani che non volevo dimenticare il Mitra, che sono morti col fegato roso nelle osterie perché avevano nostalgia della Resistenza, c'era anche questo elemento di sbandamento, però la grande maggioranza è stata militante. Se io devo rivedere il 69, no, e questa militanza ha durato anche nonostante la repressione Fiat e la Fiat Confine, perché la capacità di accoglimento, se vedo il 69, io direi degli operai Fiat, che hanno fatto soprattutto la prima ondata del 69, non quella sindacale, ma proprio che hanno dato l'onda, per esempio lotta continua, extrasindicale, cose di quel genere, direi il rapporto tra, e poi gli altri, mettendoli tutti insieme, ma il rapporto tra quelli che hanno avuto spazi per diventare militanti e quelli che invece hanno avuto forti sbandamenti, sono diventati gli sbandati, è totalmente rovesciato rispetto alla Fiat della Resistenza del 43, 45, 46. Allora, ecco, io insomma, mi sto interrogando proprio alla capacità ermeneutica di questa doppia dimensione nel vedere i grandi momenti di rottura, direi, come come si può dire, riescono a trasformare e a aprire orizzonti, e quanto invece vengono bloccati e portati alla regressione. Ecco, io quindi dicevo che questa doppia rottura, la leggera e il militante, mi pare che sia un suggerimento metodologico molto importante per misurare, direi, le vicende delle grandi fasi, dei grandi momenti di rottura storica. Insomma. Vabbè. Grazie. Facciamo in senso inverso le risposte? No, perché c'era Enzo. Sì, io volevo dire qualcosa, non so quanto sia significativo a questo punto del dibattito, però vi ruberò solo un attimo, quindi abbiate pazienza. Vorrei tornare sul problema, non tanto inchiesta con ricerca, non sono secondo me la stessa cosa, ma vorrei tornare piuttosto sull'idea di Montaldi, sociologo. Ecco, io credo paradossalmente che abbia ragione Sergio Bologna, e cioè che sia una vigliaccata dall'idea del sociologo, se con questo si intende un progetto disciplinare. Montaldi non è un metodologo, cioè non propone un metodo. Le sue biografie non sono un'indicazione metodologica, e meno ancora sono una proposta metodologica per concepire una sociologia globale. Io credo che lui non sia essenzialmente un sociologo, lo è anche, ma io credo che il suo scopo sia un progetto integrale di conoscenza che include sociologia, politica, sociologia, letteratura, antropologia, storia. È in questa trasversalità che io personalmente ho amato Montaldi, e credo che in questo sia la sua specifica posizione. Non è un sociologo orientato a darci una sociologia diversa. Ho letto nel saggio di Ferrari alcune osservazioni giustissime, cioè lui scrive in un momento in cui i paradigmi della sociologia sono lo strutturale funzionalismo. Sono, cioè, orientamenti sostanzialmente anti-individualisti, e lui al contrario esalta la soggettività. Tuttavia non c'è una pagina sola, almeno quanto mi ricordo, in cui lui faccia una polemica metodologica contro la sociologia dominante. Ovviamente Montaldi non ama la quantità, ma c'è un solo punto qui, mi ricordo, i militanti politici di base, che dice a un certo punto: certamente non era il caso di andare in giro con scartafacci e biro, cioè voleva dire non è questione di questionari. Ma non fa una polemica metodologica contro il quantitativismo e le americanate, fa, se volete, se io perlomeno così la penso, una polemica esistenziale, vitale, un modo di stare al mondo, se mi permettete questa espressione, molto di più che non un sociologo di professione, più o meno importante. Io su questo credo di essere d'accordo, non mi ricordo se proprio ho letto nel tuo articolo oppure in uno dei saggi qua. In realtà lui non si piega ai suggerimenti di Pizzorno e di Guiducci, perché il suo problema è un altro, il suo problema è la lotta di classe sostanzialmente, è, diciamo così, il progetto pratico-politico rispetto al quale comunque c'è questa raffinatezza di analisi pienamente sociologica, sento che sociologia è una buona parola per me, sì, non fosse altro. Ecco, questo è il punto principale. E però tu hai perfettamente ragione, e questo è illustrato molto bene nelle brevi paginette di Bellocchio nell'introduzione dell'edizione Bombiani che in pratica fa vedere qual è l'arco larghissimo di interessi, ed è interessante come in questo vasto arco di interessi ci riesca a far entrare anche il contributo utilissimo per i sociologi, qualunque cosa sia fosse lui. No, invece io dagli interventi soprattutto di Carlo Donolo e di Pino Ferraris mi è venuto l'esigenza di tornare sulla questione di che cosa chiederemmo ora a Montaldi, cioè che cosa bisognerebbe fare oggi. Ecco, io penso che, come dire, il problema non è che c'è da fare tantissimo, qualcuno pure lo fa, insomma. Io imparo su di Napoli molto di più da da Peppe Lanzetta che non da pensamenti sociologici o da opere letterarie di grandissima fama in questo periodo. E però volevo entrare nel merito del discorso che faceva Carlo sulla plebeizzazione. C'è la plebeizzazione, vabbè, però, insomma, quelli della leggera non sono plebei, cioè in realtà c'è questo elemento di valorizzazione forte della realtà culturale, del ruolo, diciamo, della forza politica di questi che sono elementi di disturbo, non della società, ma sono elementi di disturbo rispetto a un processo di integrazione subalterna, insomma. Con questo non voglio assolutamente fare andare a cercare chi sarebbe ora la leggera a Napoli e che contributo possono dare. Voglio dire semplicemente che in realtà come diciamo c'è questa come dire, duplicità di soggetti, di intervento che fanno riferimento a due libri, tra l'altro di che epoca, di che distanza ci hanno, Pino, i due libri, La leggera e i militanti politici di base? Non sono 6-7 anni. No, io rispetto a questo, in realtà, nella tradizione del movimento operaio, come tutti voi sapete, c'è sempre questa cosa di dire che la cultura proletaria e operaia deve, cioè, Emilio Sereni in maniera quasi insultante lo dice per Napoli, deve conquistare, no? E vincere la cultura plebea, ecco. Poi in realtà si scopre che questa cultura plebea, forse tanto plebea, non era neanche, insomma, che c'è qualcosa di ricco anche ora. Io penso, per esempio, se uno va a studiare Scampia, non ne deve trarre necessariamente quello che ne trae Saviano, assolutamente. Le mie pochissime, miserrime, no, le indagini dei miei collaboratori su Scampia mostrano una realtà proletaria di gente che lotta per non finire nella devianza, insomma, per non finire. Cioè, questo processo di plebeizzazione ha pure delle forme significative di resistenza che potrebbero essere sicuramente studiate e che non si studiano, e questo secondo me è molto importante. Io penso che ci siano tutte e due le tendenze. Quello che dice Carlo alla plebeizzazione, sicuramente, e però contemporaneamente c'è qualcosa che è altrettanto, che è pochissimo studiato, e che studiarlo alla Montaldi sarebbe meraviglioso, perché così leggeremmo delle cose belle anziché delle cose stucchevoli certe volte, che sono anche queste forme di resistenza che ancora ci sono. Tutto si può fare, voglio dire, il libro di Fabrizio Ramondino sui disoccupati organizzati ormai a 30 anni è più vicino all'epoca di Montalti che delle opere che ora, però anche lì uscirono delle cose che la gente non sapeva e non immaginava. Io sono convinto che ancora c'è tanto da fare e da leggere, non c'è bisogno di individuare. Certo, all'epoca i soggetti erano più chiari, però mica tanto chiari era. Ci avrebbe pensato alla leggera se non ci avesse pensato Montalti, mentre ai militanti politici di base forse si poteva pensare, e che un pezzo praticamente, come dire, è l'inchiesta operaia, poi si riferisce a quel filone lì. Ma chi ci avrebbe pensato se non c'era questa creatività e questa irregolarità, insomma, questa indisciplina culturale di Montalti? Chi ci avrebbe pensato a quella gente lì, ecco. Sì, grazie. Volevo solo però fare un'osservazione. Uno che secondo me, diciamo, la ragione per cui ho ripubblicato il saggio di Nicola Gallerano è perché mette bene in luce il fatto che per Montaldi la leggera è parte sostanziale della modernità. E questo, diciamo, quindi nel duplicare, diciamo, le due facce, non è che una è più arretrata e l'altra, ecco, diciamo, questo è chiarissimo. La seconda cosa che farei come osservazione è che nel discorso sulla plebe di Carlo Donolo, ecco, io ci vedo un discorso, un richiamo al tema del linguaggio. Ora, nella leggera, ne parlava anche Gabriella Montaldi, così diciamo, quando lei dice ci sono i Menaboi in archivio, ecco, i Menaboi in archivio sono la testimonianza di una scrittura autobiografica di questi personaggi, cioè questi personaggi sono parte della modernità, è vero, ma hanno ancora un loro linguaggio. Ecco, se noi dobbiamo definire ciò che è plebe oggi, non sono quelli appunto di Scampia che sono capaci di articolare la loro resistenza e la loro volontà di... Ma è un altro discorso, credo, che volesse fare Donolo, cioè l'allargarsi di questa massa che è una plebe nel senso di Hannah Arendt, nel senso dei suoi contenuti di pensiero scarsi, ecco, piuttosto, e quindi di linguaggio scarso, piuttosto che una plebe che precede il proletariato, ecco, non è la plebe del Settecento. È una plebe del Novecento e del 2000 che è formata dal linguaggio televisivo, che è formata dagli slogan, che è quello che fa, è questo che fa paura, diciamo, come allargarsi e verso il quale sarebbe difficile fare appunto l'intervista. Ecco, quindi secondo me l'interrogativo rimane ancora aperto, ecco, sulla plebe, anche se raccogliamo le parole di speranza di Enrico, che sempre ci dà, perché quello ci vuole. Grazie mille a tutti. Pangloss.